Benvenuti ancora un sabato in compagnia di Emanuele, in compagnia di Movieland su Web Radio Network, il programma di approfondimento cinematografico che tutti i sabati vi accompagna dalle 18 alle 19 e a partire da adesso anche la domenica in replica da mezzanotte a l'una. Quindi non avete scuse se non avete potuto seguire Dreamland durante la settimana, il giorno prima, il sabato, lo potete fare nuovamente la domenica sera da mezzanotte a l'una. Allora, abbiamo già iniziato con una musica con un po' di ritmo così estivo, Michael Sembello naturalmente con questa Maniac tratta dal film Flashdance del 1983. Io vi ricordo che Movieland ha una mail alla quale potete scriverci, che è movieland.radio@gmail.com, oppure una pagina Facebook alla quale potete appunto postare, chiederci cose oppure vedere quello che succederà nella puntata di Movieland. La pagina di Facebook è www.facebook.com/movielandonvrn. E benissimo, quindi noi possiamo passare alla prossima canzone. Andiamo sempre sull'estivo, mi accusate sempre che faccio ascoltare canzoni un po' datate, invece questa settimana vogliamo iniziare con una canzone che non è mai stata ancora ascoltata da nessuno. L'abbiamo in anteprima, è la nuova colonna sonora del film I Puffi 2 che sta uscendo negli Stati Uniti. La canta niente po' di meno che Britney Spears e la novità è che è insieme ai suoi pargoli, ai suoi figli, sia nel video che nella canzone. Quindi Britney Spears con Oh La La dai Puffi 2, buon ascolto. Baby, don't be shy. E direttamente dalle piste da ballo del Puffo DJ, questa era Britney Spears con Ola La, la nuova colonna sonora dei Puffi 2, che sarà nei cinema tra qualche mese. Intanto ieri è stato presentato questo video che la vede protagonista insieme ai suoi figli, perché il tempo passa per tutti. Britney Spears sembra sempre l'eterna ragazzina, anche in questo video se la vedete sembra che abbia 15 anni, invece ha due figli ognuno di 10 anni, quindi insomma il tempo passa per tutti, ahimè. E volevo parlarvi di una cosa che è successa su Twitter. Voi avete Twitter, twittate normalmente, lo ricevete i messaggini sul cellulare oppure twittate dal computer. Bene, immaginatevi ricevere 5.000 Twitter al minuto di insulti. A chi è successo? È successo a un film, ebbene sì, è stato praticamente mandato in televisione negli Stati Uniti il film Sharknado. Su Twitter tutti pazzi appunto per questo film. Il film per la TV andato in onda ieri sera sulla rete americana Sci-Fi ha spopolato sul social network, raccogliendo più di 5.000 tweet di insulti al minuto. Il film racconta di una pioggia di squali volanti che si abbatte sulla California meridionale a causa di un tornado. Il titolo Sharknado è infatti la genialata, l'unione di shark, squalo e tornado, Sharknado. Vabbè, a giudicare dai cinguetti pare che Sharknado sia stato il peggiore film nella storia della TV americana. Tra i tweet c'è anche quello dell'attrice Mia Farrow, che scrive: oh my god, oh my god, oh my god. Ora gli americani aspettano il sequel, che qualcuno simpaticamente sulla piattaforma di microblogging suggerisce di chiamare Sharknami, pensando ad un futuribile tsunami di squali assassini. Mamma mia, ma ci fanno paura queste cose? Ma no, dai, non ci fanno paura, ci fanno più paura i fantasmi di Ghostbusters, che stanno arrivando insieme a Ray Parker Jr. in questo pomeriggio di sabato 13 luglio 2013. Buon ascolto su Movieland insieme a Emanuele fino alle 19. Afraid of no ghosts. she just wants some more. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ebbene sì, in 5 settimane di programma non avevo ancora messo Pretty Woman, però vi è toccata, questa settimana vi è toccata. Roy Orbison, da uno dei più grandi film che hanno messo, diciamo, nell'Olimpo dei, hanno posizionato nell'Olimpo degli grandi attori sia Richard Gere che Julia Roberts, film del 1990, questo bellissimo Pretty Woman con questa bella canzone di Roy Orbison invece di qualche anno prima. E vogliamo parlare, però allacciandoci al concetto di Pretty Woman, bella ragazza, bella donna, vogliamo parlare ancora una volta di Claudia Gerini. Ne abbiamo già parlato 2 settimane fa in occasione del film Tulpa, però questa settimana ne parliamo per darvi maggiori informazioni su questo tanto discusso servizio fotografico su Playboy. Infatti la celebre rivista del nudo artistico annuncia la copertina ed il servizio fotografico dedicato all'attrice italiana tra le più sexy e amante del cinema nostrano. Nel numero 45 di luglio-agosto è già in edicola, per la gioia degli ammiratori della Gerini, Una vita da film, per un corpo da favola, titola così il magazine del Coniglietto. La stessa attrice a marzo di quest'anno aveva rivelato al giornale Oggi l'arma vincente del suo fisico. La mia parte più sexy, ha detto, sono le gambe e questo sede rotto che sta su che ho preso dalla mamma. E ora su Playboy è possibile ammirare nei dettagli queste doti innate della sensuale Gerini. Se volete visualizzare qualche scatto in anteprima potete quindi andare sul sito playboy.it. e noi la prossima canzone invece la vogliamo dedicare proprio a lei, a Claudia Gerini, perché è di un romano de Roma, che per una romana de Roma che volete fa? Ce vo, quando ce vo, ce vo.

Radio Network. Avvicinatevi, perché più credete di vedere, più sarà facile ingannarvi. Signore e signori, per il trucco finale rapineremo una banca. Al nostro tre lei verrà teletrasportato nello spazio e nel tempo alla sua banca di Parigi. Uno, due, tre. Siete tutti vittime dell'attuale momento difficile. C'è chi ha perso la casa, la macchina. Quindi stasera vogliamo restituirvi parte di quei soldi. Grazie a tutti. Siamo i quattro cavalieri. Buonanotte. La sua banca è stato il diversivo mentre organizzavano il vero trucco. Per lei 140 milioni di dollari sono un diversivo. A chi non piace un bel numero di magia? FBI, mani bene in vista! Forse non ho sentito bene, ha detto che dei maghi hanno rapinato una banca. Vi inganneranno. Io so che non potete avere un asso nella manica, perché se lo aveste vorrebbe dire che voi, l'FBI e i vostri amici dell'Interpol credete nella magia. Io ti inchiodo, brutto! Essere il più in gamba nella stanza è la prima regola di un mago. Uno, due, tre e... Vuole sapere come hanno fatto? Dica la parola magica. Un anno fa erano solo un gruppo di maghi da strada. Adesso mettono a segno rapine pazzesche e non tengono un centesimo per sé. Vi rendete conto che si tratta di un gioco? Portato avanti su scala globale, Las Vegas è solo l'inizio. Questo trucco è stato preparato molto tempo fa. Abbiamo a che fare con una cosa più grande di noi. Siamo tutti qui per la stessa ragione. Non possiamo smettere adesso. Ora li smascheri e li distrugga. Qualunque cosa stiano per fare, qualunque sia questo numero grandioso, fermi! Farà veramente colpo. Guardate da vicino, perché più vicini sarete, in realtà meno vedrete. Un'altra settimana insieme a FilmUp, il portale del cinema dove potrete trovare tutte le novità, i film in sala e tutto quello che volete riguardo al cinema, ma anche del passato. Insieme a noi, come tutte le settimane, c'è Erika Melis, coordinatrice di redazione. Ciao Erika. Ciao Emanuele. Benissimo, allora entriamo subito nel vivo, perché questa settimana escono dei bei film, però prima vogliamo parlare dei Nastri d'Argento, la 68esima edizione dei Nastri d'Argento che si è tenuta il 6 di luglio a Taormina, giusto? Esatto, sì, e ha visto di nuovo il trionfo di Tornatore, che ha presentato la migliore offerta, un film che ha riscosso, come sappiamo, tantissimo successo sia tra il pubblico ma anche a quanto pare tra i critici, perché infatti i Nastri d'Argento sono consegnati dai giornalisti cinematografici. Il film di Tornatore ha ricevuto 6 premi, esattamente come un mese fa aveva ricevuto 6 premi ai David di Donatello. Subito dopo la migliore offerta per numero di premi c'è La Grande Bellezza, che ne ha ricevuto 4, tra cui quello per la migliore coppia di non protagonisti a Carlo Verdone e Sabrina Ferilli. Anche il protagonista, però, Tony Servillo, ha ricevuto un premio straordinario per i tanti film di successo che ha fatto quest'anno, da La Grande Bellezza, Viva la Libertà, dove addirittura aveva 2 ruoli, a È stato il figlio e anche La Bella Addormentata, insomma, si è dato da fare. Questo per quanto riguarda i Nastri d'Argento, ma dobbiamo occuparci dei film in sala che vedono nuove uscite molto interessanti. Parlacene un po'. Ah, prima di tutto sicuramente il film Pacific Rim di Guillermo del Toro, ma anche la commedia d'azione Uomini di Parola, che ha un cast straordinario a partire dai due protagonisti, Al Pacino e Christopher Walken. Però, se mi permetti, sicuramente per me il film più intrigante della settimana è un thriller, Now You See Me, I Maghi del Crimine. Interessante, quello dei 4 maghi che fanno i colpi in banca, no? Una cosa del genere. Esatto, sì, i 4 cavalieri vengono soprannominati, comunque il nome che ha il gruppo di illusionisti, e durante i loro spettacoli riescono a fare veramente delle rapine prodigiose in banca, o comunque addirittura a svuotare il conto di criminali che hanno rubato e truffato, povera povera gente. E la cosa bella è che sono dei moderni, diciamo, Robin Hood, perché poi questi soldi non li tengono per sé, ma li danno appunto a loro, ai loro spettatori, alle persone bisognose, diciamo così. Wow, e... non hai un numero di telefono di uno di questi maghi che magari ci faccio un no, discorsino? No. Vabbè, comunque un grande cast in questo film, perché vediamo Jesse Eisenberg, che ha fatto The Social Network, Mark Ruffalo, il grandissimo Hulk, che qui se si incavola diventa verde, Woody Harrelson e tanti altri, tra cui Morgan Freeman. Sì, esatto. Morgan Freeman praticamente verrà chiamato in causa dall'agente speciale dell'FBI perché è un esperto nel smascherare delle magie. Per cui sarà, insomma, dalla parte della legge. Molto interessante, bello anche il trailer, invito tutti a andarlo a vedere al cinema. Al cinema c'è un box office, come siamo messi questa settimana? Beh, come era abbastanza prevedibile, Johnny Depp ha di nuovo fatto centro e ha conquistato subito, grazie a The Lone Ranger, la vetta, anche se non ha incassato tantissimo, ma forse è complice il caldo, perché siamo poco al di sopra del milione di euro. Va bene, io ti ringrazio Erika ancora una settimana, ci sentiamo la settimana alla prossima con tante novità cinematografiche. Ringrazio ancora una volta il portale di cinema Film Up. Vi diamo appuntamento insieme ad Erika la prossima settimana. Grazie, ciao e buon weekend a tutti. E facciamo i bravi speaker e disannunciamo le canzoni, che non è bello lasciare la canzone senza che chi ascolta sappia magari che canzone è. Infatti abbiamo ascoltato prima di questa The Ronettes con Be My Baby, che ci arrivava direttamente dal 1987, dalla colonna sonora di Dirty Dancing, che sicuramente tutti avrete visto almeno 5-6 volte nella vita, o se non l'avete fatto provvedete, perché è così, va visto perlomeno 10 volte Dirty Dancing. Ebbene sì, e poi questa qua invece è Captain and Tennille con Love Will Keep Us Together, l'amore ci terrà insieme. Lo cantavano così, o magari avrebbero voluto cantarlo, Angelina Jolie e Brad Pitt, appunto, nel film Mr. e Mrs. Smith del 2005, dove erano due agenti segreti che praticamente all'insaputa l'uno dell'altro dovevano appunto prendere informazioni l'uno dell'altra senza saperlo. Mamma mia, bel film, l'ho visto, molto carino. Però noi abbiamo da continuare. Mi perdoni, padre, perché ho peccato. Da quant'è che non ti confessi? 60 anni, anno più, anno meno. Ora dimmi ogni peccato grave che ti separa da Cristo. Oh no, staremo qui per sempre. Non possiamo occuparci solo di oggi. Finora ho rubato una macchina da sballo. Un mucchio di pasticche. Forte! Niente droghe al banco. Ma ho fatto anche delle cose buone. Oh mio Dio! Ho salvato un mio amico. Dammi le chiavi. Non c'è la chiave. Dammi le chiavi. No, è un pulsante. È automatica. Sono computer. Ma siamo nel futuro. Quindi posso dire un'Ave Maria e chiuderla così? Non credo che ti basterà un'Ave Maria per uscirne. Ha ragione. Hai fatto? Ci sto lavorando. Dicono che moriamo due volte. Una volta quando il respiro lascia il corpo e l'altra quando l'ultima persona pronuncia il nostro nome. Sei il mio unico amico. E tu il mio. È come ai vecchi tempi. No, è meglio. Chiedo solo questo, pietà. Finisci il compito. Io mi sono preso la colpa per tutti. Sono un uomo di parole. Una grandissima coppia di attori. Arriva infatti nelle sale Uomini di parola, una commedia di azione con Al Pacino e Christopher Walken. Val, interpretato da Al Pacino, esce di prigione dopo aver scontato una pena di 28 anni per essersi rifiutato di tradire uno dei suoi complici. Il suo migliore amico Doc, Christopher Walken, è andato a prenderlo e i due si uniscono a un altro vecchio amico, Hirsch, Alan Arkin. Il loro legame è forte come sempre e i tre si trovano a riflettere sulla perdita e sulla riconquista della libertà, sugli alti e bassi delle lealtà e sui giorni di gloria passati. E nonostante l'età hanno ancora la capacità di portare scompiglio facendo volare proiettili e non solo, mentre si sforzano ironicamente di compensare i decenni di crimine, droga e sesso che si sono persi. Ma uno degli amici sta nascondendo però un pericoloso segreto. Messo davanti ad una scelta difficile da parte del capo di un'organizzazione criminale, sente che il tempo per trovare un'alternativa accettabile sta terminando. All'alba di questa notte, chi li ha visti ancora una volta protagonisti e sempre più amici, la loro posizione diventa sempre più disperata e per loro è necessario affrontare il passato una volta per tutte. Questo bellissimo film è appunto Uomini di parola, in sala da giovedì in tutte le sale cinematografiche, regia di Fisher Stevens, nelle sale appunto da giovedì, un film senz'altro da vedere che Movieland naturalmente vi consiglia. Adesso però c'è stato un film nel 2008 che non ha fatto tantissimo successo, però aveva una colonna sonora spettacolare e noi non possiamo esimerci dal farvela ascoltare. Quasi tutte canzoni di Vasco Rossi, perché il film si chiamava con la K, si chiamava Alba Chiara. E noi, sentite qua che bel sottofondo. Alba Chiara, Vasco Rossi, bando alle ciance, bando alle parole, ho chiacchierato anche troppo. Eccola qua su Movieland, buon ascolto con Emanuele fino alle 19. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi e i tuoi pensieri ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare solo per farti guardare. Ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela coi libri. Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Se la ricorda la schitarrata di Alba Chiara, bellissima questa Alba Chiara di Vasco Rossi, parte della colonna sonora del film Alba Chiara con la K del 2008 per la regia di Alberto Salviati e la sceneggiatura di Carlo Lucarelli, quello lì di Nero Stanotte, Nero Domani Notte, vabbè quello lì insomma, quello col pizzetto che un po' sembra che porta Iella, è lui, ecco, bravi. Benissimo, è finita anche la canzone perché basta, dico basta, non parlare più, basta. Benissimo, allora io voglio darvi l'ultima notizia di questo pomeriggio che riguarda 007 in anteprima dal sito hollywoodnews.com. Il regista Sam Mendes tornerà a dirigere Daniel Craig nel 24esimo film della saga di James Bond. Inizialmente Mendes aveva rifiutato per voler sviluppare altri progetti cinematografici e teatrali. Per convincerlo la Ion Production e la Metro-Goldwyn-Mayer gli hanno concesso il tempo per portare a termine questi progetti alternativi. Quindi Mendes tornerà appunto a dirigere il prossimo capitolo della saga di 007, film la cui uscita è prevista in UK non prima del 23 ottobre 2015. I progetti di Mendes sono tanti, gli ci vuole tanto tempo, quindi il prossimo 007 prima della fine dell'anno del 2015 non ce lo vediamo. Però ci importa qualcosa? Certo ci importa, però ne faremo anche a meno, insomma, finché non ce lo fanno ascoltare, vedere. Noi intanto però ci ascoltiamo la colonna sonora di Quantum of Solace, uno dei degli ultimi film della saga di James Bond, Alicia Keys and Jack White, Another Way to Die. Altro modo di morire sarebbe ascoltare questa canzone. Mamma mia che baccano in cuffia, forse voi l'avete sentita meglio, io sentivo un gran baccano in cuffia, mamma mia. Comunque Alicia Keys e Jack White, Another Way to Die, per la colonna sonora di 007 Quantum of Solace. E adesso prima vi ho mentito, non era l'ultima notizia, quella di adesso è l'ultima notizia. Piazza Vittorio, noti di cinema, sì, è importantissimo, ve lo devo dire. Attori e registi, incontri sotto le stelle, lunedì sera prende il via la tradizionale rassegna, fino al 1° settembre propone tutta una serie di appuntamenti quotidiani su due diverse arene, la più ampia e completa panoramica sui film della stagione appena conclusa. Il cartellone infatti mescola campioni di incasso e film di qualità allo scopo di soddisfare tutte le preferenze del pubblico, spaziando dalla commedia nazionale popolare con il film quali Il principe abusivo, Benvenuto presidente, Buongiorno papà, alle più raffinate proposte d'autore puntando sui titoli italiani, Miele, L'intervallo, Gli equilibristi, che di altri sia che di altri paesi come Argo, Les Misérables, Vita di P, il tutto con proiezioni su schermi giganti e il supporto di tecnologie digitali d'avanguardia per consentire una visione ed un ascolto di eccezionale qualità. Quindi mi raccomando, Piazza Vittorio, questa bellissima rassegna, non mancate assolutamente. Volevo farvi ascoltare questa che è la colonna sonora invece di Fast and Furious 6, una bella canzone rap per concludere in bellezza. Uncle Lee from Mam. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with because it could get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. And the same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown whip. My new broad does a fine chick in the weather squad I'm down with. Ain't no way around it. What you say, tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day, taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call, catch you if you fall. Young Khalifa. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on two. Got big guns, been graduated from knives. It's the day in our life and I'm ready to ride. Got the spirit, I'm feeling like a kill inside. Financial outbreak, I'm free but I ain't out yet. Ride with the plug so I'm close to the outlet. At the red light rim sitting offset. I look better on your girl than outfit. Stuck to the plan, always said that we would stand up, never ran. We the fam and loyalty never change up. Been down since day one, look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say some. One thing about it, got a problem, I got the same one. Money rolls, we fold. Plenty clubs, we close. Follow the same code. Never turn our backs, our cars don't even lose control. One shot, everything rides on tonight. Even if I got. Che bene finire con questa bella canzone, Two Chains, We Own It, da featuring Wiz Khalifa. Erano proprio loro i protagonisti della colonna sonora di Fast and Furious 6, film che non ho visto ma che prenderò sicuramente in Blu-ray o in DVD, perché mi interessa molto, in quanto c'è una scena molto bella, un inseguimento serrato con un carro armato addirittura, cioè le macchine vengono inseguite da un carro armato che fa fuoco, schiaccia le macchine, una roba pazzesca. Una scena girata senza l'aiuto di nessun diciamo effetto speciale digitale, girata tutta dal vivo sull'autostrada di Tenerife. Tenerife è un'isola dove io ho lasciato il cuore, dove ci ho vissuto tanti anni, un'isola bellissima che ha una film commission spettacolare che porta in questa isola tantissimi grandi film, come appunto questo Fast and Furious 6, ma c'è stato anche Furia dei Titani 1 e 2, eccetera eccetera. Quindi bellissimo posto per andare a fare le vacanze, ma bellissimo anche posto anche per girare dei film. Probabilmente nelle prossime settimane parleremo anche con qualcuno della Film Commission appunto di Tenerife. Siamo arrivati quasi alla fine, vi faccio ascoltare l'ultima e dopo i saluti naturalmente. E anche per questo sabato abbiamo finito, siamo arrivati alla fine della nostra ora per allietarvi con approfondimenti cinematografici. Questo è Movieland, e per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, cavoli suoi, perché è finito. No, volevo dire, praticamente per chi ha seguito Movieland dall'inizio, sapete che tutte le puntate ci sono delle interviste, degli approfondimenti, eccetera. L'estate ci è toccata pure a noi, ci sono tante persone in vacanza, quindi questa settimana abbiamo avuto pochi contenuti. La settimana prossima però ci riprenderemo, non vi svelo niente, ma ci saranno un paio di interviste molto interessanti, quindi mi raccomando, vi do appuntamento la settimana prossima. Emanuele insieme per un'oretta di piacere cinematografico per tutti i cinefili, che non è la stessa cosa di cinofili. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori, vi rimando alla prossima settimana naturalmente su Web Radio Network. Questo è Movieland, io sono Emanuele, un saluto a tutti, buona serata.